parlando di umanità intera, ma non solamente in Italia, tutto il mondo è così, perché la politica è la pistolera dell'umanità, senza fare. Avanti Sandro. Io ti dico solo una cosa, non bisogna vedere tutto che luce fuori, bisogna un po' con me, ma tutto un paio di giorni, un paio di giorni, e poi ti faccio vedere un po'. No, ma sapete che credo, era una battuta. Io ti darei con me e cambieresti idea. Lo so il tuo campo, già lo so il tuo campo, già lo so, vai. Già lo so, vabbè, comunque non siamo lì a politica, ma è frequenza. C'è del proprio orto, se non si coltiva il proprio orto, poi va a finire che... No, ma io sono da parte di fare una cosa difficile, i soldi sono sempre benvenuti. Quello che mi è quello che gli ruba, quello che onestamente è come fa. Quello lo ammiro se fa soldi, capito? Lo ammiro perché se i soldi li fa lavora pure. Ehi capo, vabbè, purtroppo è un gran casino, capito? È un gran casino, oggi sto lavorando. Io domani lavoro, sai che a Protore adesso c'è tutto quel baravanna. E domani parare per lunedì. Guardi, le tasse a fine mese, devi lavorare anche i giorni festivi. Qua solo che lavori, comunque non c'è problema, quindi a Pasqua diciamo con i miei figli e basta. Ehi capo, io li portiamo, ma guarda, io ho fatto una cosa, guarda, che ho la salute su tutto, poi non mi interessa, ma c'è una persona che la gavetta nella vita lui ho. Problema è questo, che oggi non stanno perdendo la possibilità di farci la gavetta, un po' a tutto, e alcuni che non hanno la possibilità di lavorare. E quello, è vero, come dici tu, bisogna coltivarsi il proprio orto, certo, ma perdendo l'età non basta più la volontà che si possa avere condizioni, assolutamente. Loro non fanno altro che parlare, poi alla fine se c'è qualcuno, come ad esempio questo Renzi, a passo colore di partito, è interessante che ci sia uno che amministri come si deve con serietà e con onestà soprattutto. Lui che è interessante nello stesso partito è una vergogna, questa poltrona più suffice, più comoda, perché dopo non ottenere quello, la spirazione sono sempre, ecco qual è il problema. Ma comunque, riprendi. Ci sentiamo fra te, avanti Gianni. Ehi, allora, grazie, ci sentiamo. Buona serata e buon continuo trabacco, dai. Avanti giù. Ci sentiamo le prossime. E pedala sempre. Non ci sono più. Ci sei qua? No, forse non c'è Claudio. Se ne sono andati tutti e due, sicuramente Claudio che non la prenderà parte, perché stava attivando anche le VLU e quindi faceva un contra martello. Sarà che sia lì in delle altre frequenze. E vabbè, purtroppo così già, aspetta adesso le politiche. Comunque cosa succede? Il 26 dobbiamo andare a votare anche noi. Vedere che cosa succede. Quello che ti dico già, io sono arrivato, diciamo così, alla massima aspirazione e poi gente che ancora lui che non vede il lavoro e intanto nel frattempo arrivano tasse, arrivano da ogni parte, sperando l'imprenditore. Capito Gianni come la studia, purtroppo. Vabbè, un po' meno se prendo lo stipendio e ciccia. Ma l'impresa principale deve fare molto proprio per pensare all'innovare, come gestire l'ambiente, ecco che concerne il nuovo elettrico. Okay, se puoi essere di buon umore o rosso, sicuramente devi essere così. Sei arrivato tu, tua figlia sta lavorando tranquillamente, quindi ma non ce l'hai. Io la verità sta studiando all'università, è bravissima, ha detto il massimo. Molto piace bloccare, quando lei è molto brava a bloccare, mi dare il blocco, perché io so se stava a poco, quindi immaginati tu, però non si vive uno di colpare l'altro, ore in meno, questo e quell'altro, dovremmo finire. Vado a sperare, guarda, perché la nostra è soprattutto la mia, perciò ti puoi immaginare, io so, ce l'ha da fare, perché lavoro 8 ore sempre allagnandosi, e tante volte si deve anche arrabbiare, perché sanno anche a me che tutto questo non va bene, però poi quando arriva la denuncia a dirti, metti 8.000 euro l'anno, senza poi non saliva, senza aver incassato un centesimo dalla mia parte, e sono tutte cose che queste che ti danno fastidio, altro che se danno fastidio, caspita, allora di una parcella, sì, tutte le volte che sono decita, sì, adesso proveriamo, però nessuno, tanto però sei da parato, vedi, tutti gli anni gente vuole i soldi e così via. Non è possibile, non è possibile trovare questo passo. Guadagno mesi, mesi e mesi, addirittura anni, in certi casi privati. Dimmi. E chi lo sa. Io ti devo lasciare perché devo pulire casa. Gli altri sta lavorando, quindi devo dare una pulita, lasciare almeno pulita per domani. E mi faccio qualche cosetta, là. Faccio un po' l'aspirapolvere, qualche cosa così. Infatti l'ho chiesto a Luca se veniva a darmi una mano, invece ha detto di no. Luca l'antenista, oppure Luca manicomio. Flipper. Ah, ho capito. Quello forse sarà tagliando pezzi di filo per fare l'antenna. Per fare antenne. Vabbè, dai, già. Vai a pulire, vai a fare quello che c'è da fare, bisogna collaborare. Tu già lo so che lo fai. Questo dunque va bene così. Ottima idea, mi sei considerato se tua moglie va al lavoro, è chiaro che a casa ci sei tu e devi sistemare la situazione. Ci sentiamo le prossime allora, vai. Ciao già, a più tardi eventualmente. Ciao, io lascio acceso qua e rimango in ascolto. Ok. Popolo di ascoltori, Prussia. Prussia, chi si para? Dove sei? In cantina. In cantina sono, non ti va bene? Ti sento perché ti sento basso. Ma io sono piccolo e nero come cari nero, per quello che mi senti basso. E allora, tutto strappato sei, tutto incubato e la guba pari, la pazzino. Ti lo posso fare un biloccio, con paura di così è. E allora, te l'hai bruciato tutti i camani. Però che era nessuno, non era nessuno, cazzo da di là di là, Piccio Marrano, si è andato ai vivi. Cazzo da di là, no? Tu stai bruciato a Romontina. Da caruti, Giomari! Da caruti! Oh, poverudetto, cazzo! Però mai che ci sei tu, mettete la porta a piombo con l'uomo, mettete la piombo lì, comunque la barattera ben sentita, e la perca è sana, non li posso fare per andare un vicino, cazzo. E mi riporto lì, come se fosse una pugna a capo. Oia, fine vignita, cazzo va via di narri muniti. Cazzo, tu mangiamo, prima da a me, tu puoi andare a punirci due rotti, e rifreni, Giovanni, a chi? Se ci tu, quasi sei cinquunetta, non riesci a frenare, ma comare non aveva nessuno a dare tu. Cazzo, bello male, perché sai che... fare quei vai. Se lo ritrovi, inizi lo portati a Bazzero. Infatti da un pezzo di canna fritta e le allo in modo che si possa incinare. E la tua idea con la riga. Mare ti sento, micchio Mari, no, non è chiara come modulazione di radio. Boh! Aspetta che mi senti più bene, va? Cuffa e non si comprende. Non ha capito neanche Paoletta cosa stavi dicendo. A pazzino! Dirla a tutti, dirla a tutti. A pochi adesso mi senti bene. Avanti, adesso sembri un neonato, un puffetto. Chiara, chiara e pulita, pulita. Ah, è caro, caro, non me lo dire, no. Ah, va, sì, mi sciolgo. No. io so che è così come stai dicendo tu, Lo so, purtroppo è così, Adesso questo bisogna metterlo a piombo perché ne sta combinando tutte le maniere. Ma io non mi vorrei a parte tua, Roe, perché quello è malandrino. Ma com'è che non vedo io in macchina, insomma, di? Oh, fa carità, tu male giro rampo da un bozzo, giro rampo. Però mi si abbiero però mi ammazzo muori subito. Grazie, canto ti volevo becca a te. Dammi un vostro bilancio di vino, verico la famiglia. Intanto mangio su voce burì. Ligo due gomma davanti e le prende a chi si la mangiate tutta un'ora che prende. Boh. Ma ricalasci o ribassigli? No, le bassigli, no, i dischi non c'hanno niente. Ribassigli, boh, a giumare la guerra, a inteso clac, clac, clac, clac. Ha cominciato a scissi dritta la macchina e non si frenava. Allora ha già tirato lo freno a mano e ha già fatto stessa cosa, e gli ha filigrito. Che cazzo è da poco la faccia che si freni, no? È chiaro, beh, altrimenti se ne avvisavi che la macchina non frenava bene. Si deve avvisare. Ma la pietra virai o no? Eia, no, da un mese, saranno i bacilli freni, saranno un tre anni, no, forse pure di più. 4 anni là saranno che me li avevo cambiati, da fiori me li aveva cambiati in officina. No, aprinai la prinese, ma non lo sentiva nel rumore né nulla, tutta un'ora proprio la parata, andò a rallentare e hai cominciato a dire clac clac clac che da macchina sembra che le rende giri bianchi la parata. Ha detto, boh, sono arrivato al curvone e ci ha detto, esci, no, che prima sei sciodrito, ti è sempre sabbietta. Allora ci ha dato un problema, se la si voleva filmare. Pensa che te ne camminerebbe, che... non verrà il pia delle bastiglie, cazzo, è il solito, verrà il pia, quando è già consumata la bastiglia, si accende la spia e ti segnala che bisogna ciamballi. Allora non è attaccati, che cacchio di meccanico è da chi si sta portando un po' sui i bastigli. Ah, che poi le bastiglie che non servono, non sai niente, cazzo, capito? Da voi non pure manco un segnalatore, cazzo. Non è segnalo passibile. Ma con un radiatore segna se sta la temperatura, me la controllo sempre io l'acqua. No, sono andato e me l'ho comprato io piano piano da voi. A Pretaneta, la Torre Zauto, cosa si chiama? Autoricambi, me le ho comprate, sono andato lì in via Pirandello, me le ha fatte piazzare più, ma di un busto di due gomme, state religiose, cioè ancora a mezzetto e mezzetto potevano andare, ma tanto che i regimi me li ho fatti cambiare. Ma non rammarava sempre una vignetta. E che com'è il bigliaggio, che macchiaggio? Kleber! Stanno arrivati. Già va bene, già vanno bene. Anch'io ho messo le club, ho messo anch'io. Sì. Già vanno bene. Ma Sandra, faccio... Ma c'è 14 o 13 vai tu? Sono 13/80. 13/55/80 mi pare che così 155 70 13, sai tu? No, 80 non è 70, 80 è 155 13 80. Ah, non ho capito. E vabbè, e insomma, ma sai, ha fatto pagare ognuna. Se sono in discreto, ti lo puoi dire, Allora, me la lasciate 50 e non faccio, vado sempre da lui. Anche quelle che mi ha levato, me le aveva messe lui 8 anni fa. Infatti mi ha detto, ci sono tutti i giganti come te e te, a campo domani, 8 anni fa ti la giubbocchi, signore. La dice, chi c'è? Ma vanno a fare un doppio a chi? Prima ero travagliata, ma non so più travagliata, e la macchina ha tratto ancora di mappa, andiamo poi, non mi vieni più. Però la farà con me, lavorava. E da come? Sì, le parole proprio, lavorava da me. Capito? La da come? Si è stato un po' e dopo se n'è andato. Allora ha cominciato, si è messo un negozio nuovo, ha colto suo e già sta lavorando, dai. Già sta lavorando, anche i miei figli, in sotto vanno, la maggior parte vanno lì, capito? No, già si arrangia come prezzo, capito? Per cui va benissimo, dai. Si è fatto un prezzo abbastanza buono. Bene, meta, bene, meta. E l'equilibratura fatta di là, sì? Ehi, tutto mi ha fatto, no, già ne ha lavoro, già, già, fate un campo di luce se lo vuoi farmi, sì, fate un poco di mercanica di alla base. Ebbene, perché noi non lo facevamo, noi facevamo la convergenza, cambiavamo olio, olio di peli, olio di... insomma tutto, facevamo tutto, facevamo anche le modifiche agli ammortizzatori, facevamo anche la convergenza e per cui si provava, se non era perfetta non si la dava, hai capito? Perché appena facevamo il lavoro la prendevamo e si faceva il percorso lì a San Giovanni e si controllava se la macchina teneva bene oppure no, capito? Anche la pressione vuol dire molto anche, certo. E per cui già fa di rivedere, capito? Per cui adesso un po' tutti fanno questi lavori, dai. I più grandi, ma i più piccoli no. Non mentre come ti si battisce le via Giovanni Pasto e baccareggiare, gatta. Tu via, per carità. Vai a pure i gommigli di vai. Allora anche da questa mi ha detto andarmi da la tessera, che mi ha fatto la ricevuta, ma non mi devi dare la tessera di controllo. A tutto periodo mi devo avvicinare, lui mi controlla sia le pastiglie che il consumo delle gomme. Ha detto vabbè, alla chitarra è trabasso e mi dà una tessera, no? E mi dice a 8 km vieni che controlliamo il consumo delle gomme e il consumo delle pastiglie. Ha detto va bene. Adesso in estate, no, in tempo caldo, bisogna controllare molto la pressione, dice va più bene, capito? La pressione deve essere sempre adeguata, perché il ferro la pressione è normale, però quando ha rugaggio la pressione aumenta e per cui no, può sempre controllare da me, capito? Vabbè, fai su che la trattiva la macchina, chi sa andare a controllarla spesso, che la tratta bene la macchina, che la tratta ogni a mica io la tratto ogni anno la macchina, ma poi farà fare chi può. Prima quando travagliavo già me le controllavo più spesso, le gomme e tutto, però a chi fa di strada andando a travagliare, ma va, a Spagna non vado più, cosa? Già ricontrollo ogni tanto io. Poi già mi l'avviso quando sono mezzo pace. Oh, e me ne controllo la riproduzione quando ando a pormi la benzina. Va. Io stasera, dopo, appena che ho pranzato, siamo scesi in campagna. Mi sono fatto la macchina, perché faceva il kit questa macchina, era vicino, con il ferro non l'ho toccata, l'ho pulita nulla, faceva il kit, oggi me l'ho fatta lucida, ma sai vuol dire lucida, manco una fagista della fase così precisa, e beh, da tutta profumata, 30, gatta, è un bombo, va, sì, può dire che la macchina ancora è nuova. Però, cazzo, vedo quasi 2 ore, vera, ma l'ho fatta largamente, non ti dico niente, grazie. Capito? Sono fatto apposta, proprio, è appena mi ero bastone, a chi era quasi viotto, e allora ci ha attaccato la bomba, ma ci viene un bastone, buco. E insomma, la macchina va giù pulita oggi. No, stamane l'ha preso con passando i ghivi e mi ho comprato il caricabatterie e mi ho comprato la batteria ricaricabile, una, e un'altra dura c'è. Però io adesso quando lo spendo, ne lavo con la batteria, ti consuma la cazzo la batteria razzura. Boh, no, ci ho preso una cosa. Ma l'MTC a proposito, allora andare a fare? Non mi impegni, l'ho tutto dimontato, ero già unita subito, sotto la scheda, incrociato sotto, già sì, come ti ha dimostrato la vita, ti è parato 30, boh, la chitarra non veniva, non ho mollato quelle 3 viti della scheda ed era incrociato in fondo a tutti. Ma me l'hai immaginata, a me pure. Con un microfono mio, la saluta che la provvede di staccare, cazzo, ma è parita, se era proprio sotto il circuito, ma me l'hai immaginata, grazie, me l'hai immaginata, così che a me deve avere tutto tranquillo, così, ma boh, non lo so, grazie, come tu mai consumo questa batteria, che microfono, boh, non lo so, ascolta, sai cosa devi fare? Vorrei tirare i contatti di un rubomero di un microfono, ogni tanto bisogna dargli una spruzzata di questo prodotto che si usa per i contatti elettrici, capito? L'ho tutto pulito ieri sera, ci vedo la ragnatella a Trento. Però quando io lo spendo, il baracchino, schiaccia il mic, posso e si muove la freccetta, invece non lo deve fare, se è spento. Per quello si consuma la batteria. Infatti Luca mi ha detto che se mi viene verbi un bacio, mi piazza l'interruttore piccolino dietro. Io ce l'ho mano a davvero, di abbaggio è troppo umano, ma tu vedi qui là che si minoreggi cromati. Uno di quelli ci vuole. Ma chi tu che baggio non andava? così dirò qual è stacca la batteria, se non mi tocca attacca il sacco la batteria, vai furami la batteria. A chi la vuoi, quando non sa che ne sta, così non mi rimane la batteria, sicuro la giubbaga da riccia, dura c'è. E la bella giubbaga tu, 5 euro e 90, quella ricaricabile, però ne aveva solo una, e la dice vabbè, dammi riccia e una riccia, chita. Per scritto che la dobbiamo pure a caricare ed è sotto carica, perché mi ho preso anche quella pare per mettere anche queste quadrate a caricare. Oh. Sì, io e me non ne consumo la batteria, poi infatti è strano però Io invece dice là che saldatura fredda, grazie. Perché non se la deve, non la deve bruciare l'energia, capito? No, beh, è sempre normale, capito? Grazie, vedo un anno le batterie, non so cosa male, capito? Non consuma, saranno proprio vista, boh. Oh, vabbè, io che la via poco, da poco, cosa via, io, un mesetto, né più o meno, è così che non si è caricata, insomma, su un video che l'abbia io, capito? Però, strano brutto. E infatti, allora, fai come ti ha fatto Franco, che l'ha posto uno di quelli i territori piccolini, ci sono, no? Si vende la GBC, anche Fusaro, piccolini sono. E fa un boccaletto con il drabanino, il silubone, ecco, e lui si stacchi, e sei tranquillo, cazzo. Guarda che è un bombo che sta parecchio, cazzo, è un bombo che sta parecchio, grazie. Tu dici la mondezza, ma cosa è la mondezza, cazzo? E quello è un apparecchio buono, forse è meglio di questo che sto usando io adesso, grazie. Ma scherzando, quello è un apparecchio, è un signor apparecchio. Poi va, si sente bella potente la radio, capito? Era dato un microfono e purtroppo vedi cosa scrivi. Ma l'apparecchio non fa niente perché è perfetto. È solo che tu un particolare dell'USB, ma è capito, è purtroppo così. Non è solo apparecchiato di nuovi per cui. Però si va, di buon apposto le bande. La causa che il signor apparecchia va a fare gli ex in propagazione, non finì più, a chi sapere che anda un be. Una di questi sere dopo le feste saliamo da Vittorio e glielo facciamo vedere. Tanto ci devo salire anch'io, capito? Ma sai che Antonello l'altra sera mi sentiva benissimo, io lo sentivo perfetto, su USB. Proprio bene bene come in AM lo senti. Allora, andiamo su 23, grazie, passiamo in USB, dai, e le proprio via, vai. Su 23 però,